mercoledì 15 febbraio, benvenuti a una nuova puntata di Cialtroni nello spazio. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. E un saluto virtuale anche a Marco, che ci ha abbandonato per qualche settimana. Siamo orfani. Per il momento è in Uruguay. Poi seguiremo comunque il suo viaggio tramite il suo blog. Possiamo dare anche l'indirizzo a tutti gli ascoltatori. Magari quando ci ricorderemo di andare a leggere quello che scrive, lo daremo. Intanto oggi invece daremo ancora un po' di aggiornamenti, ancora un po' di news, e presenteremo poi un progetto, una raccolta di software dedicato a tutto ciò che ha a che vedere con il video. E avremo un po' di aggiornamenti, un po' di novità di quello che accade nel mondo sia dell'open source che dell'informatica, perché Cialtroni nello spazio oggi non l'abbiamo ancora detto perché non c'è Marco, però possiamo ricordarlo, è una trasmissione dedicata alla musica libera, all'informazione libera relativamente alle nuove tecnologie, soprattutto al mondo del free software, e insomma anche ci occupiamo di sicurezza, di informatica, di un po' di tutto quello che ha a che fare con il mondo del digitale. E partiamo subito con una news di cui avevamo parlato anche la settimana scorsa, per quanto riguarda la repressione e i filtri agli accessi internet. Allora, è uscita sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio il decreto dell'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato, che si occupa appunto di stabilire regole e modalità di utilizzo dei monopoli. Nella fattispecie è uscita appunto questo decreto che impone agli internet provider di bloccare l'accesso a un elevato numero di siti internet, per 517 siti in totale, di scommesse online. Quindi decreta che dal 24 febbraio tutti i provider italiani debbano impedire l'accesso dall'Italia verso questi siti. Quindi questo non ci interessa tanto dal punto di vista del gioco d'azzardo, e non c'è nessuna intenzione di fare una morale su chi ha passione per questo tipo di attività o no. Il punto importante da capire è che in Italia nelle ultime settimane si sta arrivando ad avere una vera lista di censura di siti e di IP, a cui per il momento sono stati fatti quelli che avevano più interessi, diciamo così, economici, quindi sicuramente questo caso dei monopoli di Stato, ma poi anche quello che avevamo già accennato nelle settimane scorse, la possibilità di vedere da alcuni siti internet cinesi le partite di calcio del campionato italiano, dopo che la televisione cinese aveva regolarmente acquistato questi i diritti di visione. Però in Italia non è possibile raggiungere questi siti proprio per una decisione che è stata sicuramente voluta da Sky e da chi detiene questi diritti in Italia. Adesso con questo si va espandendo, insomma, una lista di siti che vengono censurati da autorità in Italia, e questo deve assolutamente far riflettere. Confermata la mega multa a Telecom Italia. Allora, confermata una multa per attività anticoncorrenziale di Telecom di 115 milioni di euro, la più grossa multa mai comminata dal Consiglio di Stato, comunque per conto del garante della concorrenza. Allora, la multa è stata comminata a Telecom per una gara, come si dice, organizzata da Consip, che è una fantastica invenzione recente per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, ovvero un'agenzia che si occupa di contrattare contratti, forniture di ogni genere per conto delle pubbliche amministrazioni. Che segue un principio valido, che è quello appunto di centralizzare alcuni tipi di spese alla pubblica amministrazione, ovviamente per ridurne i costi. Resta la perplessità di un'agenzia di questo tipo, che è un'agenzia privata, o comunque una di quelle a capitale misto in Italia, dove generalmente questi mix tra o comunque queste agenzie private finanziate con fondi pubblici, che gestiscono comunque fondi pubblici, spesso vanno a finire in forma di corruzione più o meno nascosta. Comunque questa gara del 2002 era una gara per fornire servizi telefonici alle pubbliche amministrazioni. Telecom, sfruttando il fatto di essere il gestore delle linee telefoniche, quindi di stabilire anche il prezzo per gli altri operatori, ha fatto un'offerta che era più bassa di questo prezzo che applicava poi agli altri operatori. Di conseguenza questi non potevano fare un'offerta più bassa se non perdendoci. Il garante della concorrenza ha stabilito che questa era un'attività appunto non legale, lesiva della libera concorrenza, e ha stabilito, cioè ha comminato questa multa. La nuova gara di Consip è stata vinta poi da Fastweb con un ribasso del 30% del prezzo. Ecco, giusto per capire un attimino come funziona la questione sulla libera concorrenza, il fatto che un'azienda proponga comunque un prezzo inferiore, soprattutto per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni o comunque grandi contratti, non è sempre favorevole, perché tende comunque a tagliare fuori tutti gli altri concorrenti che sono emergenti o comunque non possono arrivare a produrre quel genere di offerta, e alla lunga questa posizione, che si chiama posizione dominante, è il controproducente per gli utenti stessi, in questo caso vabbè, le pubbliche amministrazioni. Intanto ascoltiamo anche un po' di musica. Cosa ci proponi Alessandro quest'oggi? Sempre musica free e assolutamente scaricabile e libera. Allora, questa oggi proponiamo in realtà un CD prodotto, quindi che ha anche un'etichetta, perché è un CD che vabbè è arrivato come promo. Era un CD registrato, però è prodotto con licenza Creative Commons ed è possibile duplicarlo e distribuirlo per uso non commerciale, quindi con la clausola not commercial. E allora si chiamano Rain. E allora iniziano, dunque, vabbè, fanno folk, combat folk più o meno, una cosa di questo genere. E sono nati nel 99. Pubblicano appunto per l'etichetta Sounds Production. Allora il loro sito è www.rain99.it e il loro album si chiama Rain Hest, e andiamo a sentire la canzone di Chiara, che è la traccia numero 5. Da Bari un mattino di novembre, e con un sacco di cotone sottile come la speranza, e vide la pianura della Puglia sotto un cielo di metallo, e in un attimo capì al volo che niente era cambiato. E le strade d'adesso sono come quelle di una volta. La strada è un po' come la vita, da qualche parte dovrà andare. E Chiara sente il vento nei capelli, vento d'Albania. E Chiara sente il vento alle sue spalle, le spalle a casa sua. E la gente non pensa, la gente non vuole, la gente non sente, non prova dolore, non c'è pietà e non c'è amore, e pensa a mangiare e poi a dimagrire. Cadono gli aerei e le bombe sulla trappola globale, la salvaguardia di un sistema che fa schifo, fatto per il capitale. E Chiara guarda il cielo di Milano, ma lo trova ancora uguale. Lì ha 15 ore di lavoro che l'aspettano, marciapiede dove stare. E la gente non pensa, e la gente non vuole, e la gente non sente, non prova dolore, non c'è pietà e non c'è amore, pensa a mangiare e poi a dimagrire. Chiara gli occhi scuri nella notte e sa che deve andare. È forte del ricordo di un amore perso al di là del mare. Io mi chiedo quante chiare ci saranno che dovranno poi venire. E se davvero è tutto così ovvio, come fate a non capire? La gente non pensa, la gente non vuole, la gente non sente, non prova dolore, non c'è pietà e non c'è amore, e pensa a mangiare e poi a dimagrire. Che ha disposto l'apertura di un'inchiesta, hanno riferito che l'imbarcazione si è trovata all'improvviso in una tempesta. È intervenuta la guardia costiera. Un paio di segnalazioni invece per quanto riguarda il campo della sicurezza. Per quanto riguarda la sicurezza in Windows, è stata trovata una falla in un altro formato grafico. L'avevamo detto già a gennaio, parlando un attimo della falla che riguardava un formato piuttosto inutilizzato recentemente, il WMF, che aveva causato anche un po' di panico, anche perché il WMF non era esattamente un formato grafico, ma era una sorta di insieme di codici che permetteva di fare delle cose strane a questa falla. Adesso invece la falla è un'altra ed è in un formato ben più diffuso, ovvero il formato BMP, ed è un problema che si crea in combutta con Windows Media Player. Infatti basta costruire un'immagine in formato BMP e passarla in Windows Media Player, oppure con un documento particolare con Word all'interno ci si mette un formato appunto WMP, un Windows Media Player come immagine, e si possono insomma fare delle cose strane. Particolarmente problematico è il fatto che, secondo Security Focus, è anche possibile utilizzare questa falla con una skin, con una, diciamo, una pelle di Media Player, che sono quelle cose che voi potete andare a scaricare per cambiare un po' l'aspetto di Media Player. Ecco, se voi ne prendete una infetta, ci sono delle conseguenze abbastanza gravi sul vostro computer, perché la falla consente di prendere completamente il controllo del vostro computer, installare programmi, vedere, cancellare, cambiare dati e cose del genere. Fortunatamente in questo caso è già uscita la patch che ripara questo dal bollettino di Microsoft, mentre invece in altri casi non sono ancora uscite le patch e ci sono delle, sai, problemi di sicurezza, altri problemi di sicurezza gravi che non sono ancora risolti. Allora, in particolare segnaliamo una falla di sicurezza che sfrutta una vulnerabilità direttamente di Windows, quindi senza l'Internet Explorer di mezzo, che ormai era abitudine e che noi consigliamo sempre di non utilizzare proprio per questo motivo. Allora, la vulnerabilità è piuttosto grave, tra l'altro è segnalato da un'azienda italiana. Allora, risiede in due componenti, vabbè, tralasciando la parte più tecnica, comunque risiede in due componenti che normalmente funzionano in Windows, anche quando noi non facciamo nulla. Attraverso questi due componenti, che sono considerati sicuri, è possibile eseguire del codice semplicemente dalla navigazione internet. Allora, il problema è che è possibile esistono già delle come si dice si dicono exploit, però dei metodi, diciamo, per rendere effettivo questo baco. In particolare il team zoneh.it ne ha fatto un esempio, e attraverso questo esempio è possibile scrivere un file contenente qualsiasi cosa all'interno dell'unità C. Quindi è possibile scrivere in qualsiasi punto del disco fisso semplicemente utilizzando questo baco. Ovviamente la cosa è molto grave, perché permette a chiunque di scrivere sul nostro disco e quindi anche di modificare le informazioni, il registro di sistema, insomma tutta una serie di cose, e sovrascrivere i nostri dati, ammesso di conoscere il nome del file in cui sono inseriti. E la cosa grave è che non esiste alcuna patch di sicurezza al momento. L'unico consiglio che è possibile trovare sull'articolo di Punto Informatico, di cui trovate il link anche sul nostro sito, è rimuovere una DLL, quindi un componente di Windows, temporaneamente, fin tanto che la cosa non viene corretta. Quindi vabbè, ricordiamo il nostro sito, che è spazio.circolab.net, dove troverete tutti i link delle segnalazioni fatte oggi. Adesso andiamo a parlare un po' di Olimpiadi, giusto per portare un paio di notizie che fanno capire come alla fine le Olimpiadi siano un grande business, per cui si può, insomma, fregarsene di tutto e di tutti. Allora, RaiClick, che è la parte informatica della Rai per quanto riguarda internet eccetera, dà la possibilità di visualizzare le registrazioni della Rai come servizio. E fin qua tutto bene, l'ha sempre fatto. L'unico problema è che per fare questo con i filmati delle Olimpiadi utilizza un sistema di DRM, quindi di protezione dei contenuti, di Microsoft. Interessante che il... Allora, vabbè, ovviamente essendo un sistema di Microsoft funziona solo con Windows, quindi se volete andarvi a vedere le registrazioni prodotte a RightClick non potete farlo con un Mac o con Linux. E già qui saremmo un po' discriminati. Ma oltre a questo, il discorso è che questo DRM in realtà non protegge alcunché. Cioè non serve effettivamente a proteggere i contenuti, però in compenso... per poter vedere questi filmati bisogna installare un componente di Windows che è opzionale e che serve appunto per gestire i contenuti sotto che sono predisposti appunto al DRM Microsoft. In pratica è una specie di cavallo di Troia, nel senso che con la scusa dei filmati delle Olimpiadi voi vi scaricate questo componente che poi resta fisso nel vostro computer e per esempio vi impedisce di utilizzare il Windows Media Player per la visualizzazione di contenuti protetti anche extra quelli Olimpiadi. E ovviamente sono nate una serie di proteste, anche per esempio per chi voleva visualizzare questo contenuto all'esterno dell'Italia oppure da connessioni esterne all'Italia, perché appunto queste non è possibile farlo. Sempre riguardo alle Olimpiadi diamo un'altra segnalazione. È uscita come notizia da Repubblica una dichiarazione presa di Giuseppe Gattino, capo ufficio stampa del Toroc, che dichiara: una persona ha cercato di creare problemi al nostro sistema informatico ma non ha prodotto danni. Nella fattispecie sarebbe stato un ex impiegato ad avere password di amministratore per l'accesso al sistema e con l'accesso al sistema appunto del Toroc, che è l'ente che gestisce l'organizzazione dell'evento olimpico. Ecco, quello che nei giorni scorsi sui giornali è stato chiamato l'hacker delle Olimpiadi, in realtà una persona che aveva queste password ma non aveva nemmeno tentato, non si capisce bene nemmeno come mai aveva le password, può essere semplicemente che gli avessero date direttamente loro quando lui stava lavorando proprio sul sistema, e la vicenda non è per niente insomma chiara, però sui giornali è già diventato l'hacker delle Olimpiadi, come se avesse tentato di fare chissà cosa. Al momento sembra che invece non abbia proprio tentato di far nulla. Pare che quindi la cosa più probabile è che questo effettivamente fosse in possesso di queste password, ma che non avesse nessuna intenzione di fare alcunché o nemmeno forse la capacità di creare danni. Ecco, speriamo che questa persona non abbia mai frequentato un centro sociale in vita sua, che non abbia mai avuto un amico di sinistra, perché altrimenti potrebbero accusarlo di chissà cosa, dato che siamo in Italia. E sicuramente mostra una forte leggerezza appunto nella gestione degli accessi a questo sistema e anche una certa solerzia nella repressione anche di chi per caso probabilmente si è trovato in possesso di queste informazioni. Siamo ora all'ultima parte della trasmissione. Volevamo segnalarvi un sito che raccoglie del software. Il sito si chiama Doom9, scritto in cifra Doom9.it, e presenta una collezione interessante, Alessandro. Allora, vabbè, il sito originale è www.doom9.org, e però è un sito tradotto in diverse lingue, tra cui appunto anche l'italiano. E dunque è un sito dedicato a, come dice il titolo, la risorsa italiana definitiva per il DVD backup, appunto per fare copie o backup di DVD. Allora, è particolarmente utile perché, al di là di proporre tutta una raccolta di software selezionati, tiene anche un newswire, quindi un elenco di notizie molto aggiornato, anzi è giornaliero praticamente, sulle tutte le novità che riguardano questo mondo, quindi i software che escono, anche l'hardware, per esempio i lettori DVD o i lettori DVX, anche le questioni legali, quindi quando era uscita la nuova legge sulla difesa del contenuto digitale, che ha messo un po' al bando o ha tentato di mettere al bando appunto lettori come MPlayer, VLC eccetera eccetera, è stata riportata tra le varie notizie seguite. E soprattutto è utile perché ha una sezione di guide piuttosto ricca, in cui è possibile, anche in italiano, vedere come utilizzare questi software, da quelli più semplici a quelli più complicati, e fare cose differenti. Ad esempio, nella sezione guide abbiamo nella parte DVD backup, fare backup da DVD a DVX, oppure da DVD a DVD, ovviamente fare video CD, fare rip audio, estrazioni, conversioni, inserire sottotitoli, oppure come utilizzare Virtual Dub per montaggi semplici. Insomma, tutta una serie di articoli e di guide legate al mondo dell'editing video, diciamo più semplice, quindi non quello di produzione vera e propria. Sì, che magari è quello che per molte persone è anche quello che si deve ritrovare a fare, magari prendere uno spezzone di filmato di qualcosa che è stato videoregistrato per metterlo insieme a qualcos'altro, e cose semplici tipo appunto mettere in linea un minuto o due di uno spezzone poi seguito da un altro. Però c'è anche una sezione interessante, che è quella dei download, dove è possibile scaricare molto software che tra l'altro è anche free software, cioè senza bisogno comunque né di pagarlo, e con completo accesso anche ai codici sorgenti per chi volesse fare delle piccole modifiche. E ci sono poi dei software proprietari che però bisogna fare un click, una cosa abbastanza interessante, bisogna fare click su mostra tutti i software per poter vedere anche quelli che sono segnalati come proprietari, che magari sono shareware o hanno una durata limitata per poterli usare prima di si possono provare, e poi però bisogna comprarli e pagarli. Comunque ci sono dei software sicuramente interessanti. Ad esempio, andando a vedere, ci troviamo DVD Shrink, che avevamo già presentato, che serve appunto per fare copie di DVD. Però esistono anche varianti di DVD Shrink più evolute, più semplici, ad esempio Do It Fast For You, che è più semplice di DVD Shrink, anche se sembra incredibile, dove fondamentalmente c'è solo da cliccare un bottone per fare la copia del DVD, oppure più articolati e più efficienti come DVD Rebuilder, che mette insieme tutta una serie di pacchetti sempre per fare lo stesso lavoro. Altri software per modificare, recuperare DVD danneggiati, ad esempio, che è una cosa comune, oppure per saltare protezioni che appunto utilizzano settori danneggiati per impedire, ad esempio, a un programma come DVD Shrink, che non è in grado di fare questo lavoro, di copiare il DVD. Troviamo, l'abbiamo detto prima, Virtual Dub, però con tutta una serie di aggiunte che possono essere interessanti, come il Virtual Dub Subtitle, che permette di aggiungere i sottotitoli. insomma tutta una serie di tool, da più semplici e a più complicati, che sono indispensabili per chi insomma vuole fare questo genere di attività. Ricordiamo appunto che quasi tutto quello che è proposto è open source o gratuito, ed esistono anche segnalazioni di programmi per Linux che sono già più difficili da trovare, già selezionati dagli editor, dai maintainer di questo sito. E con questo si chiude la trasmissione Cialtroni nello spazio, la prima senza Marco, purtroppo la prima di una lunga serie, purtroppo sente. Per noi ma non per lui, visto che è in vacanza. Seguiremo il suo viaggio tramite il suo blog, che non, di cui non ci ricordiamo l'indirizzo. Comunque, se volete scriverci, radio@numerica.org, il sito l'abbiamo già detto, comunque è spazio.circolab.net, e quindi a risentirci alla prossima settimana. Mercoledì prossimo.